voglio dire niente. Ma il niente parla più di me, quel niente che, quelle cose che erano particolari, secondarie, niente più. Non voglio dire niente. L'amore in fondo mente se il fondo è sotto un mare di chiacchiere, e parli troppo e sai le cose che non sai. Ma l'amore non è mai le parole che userai, è un fermacapelli che andò perso e ritrovato poi, era niente adesso io, col cuore e le mani vorrei sapere con i tuoi capelli come stai. L'amore non finisce. Forse voglio dire che frasi così nella testa continuano a farsi vive, a farsi amare, perché noi no. L'amore vedo i tuoi orecchini tra di noi, te con la camicia che è mia, vedo un tavolo e noi su, ti mangiavo mentre ti sfuggiva un bel verso che io potevo perdere. Ho perso te, l'amore non finisce. Non voglio dire niente che, niente che sia. Sai, l'amore è ridicolo. L'amore è quello che ti pare, o pare a me. Oh, l'amore è rosso come il mare, ma il mare è blu.